puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, c'è anche la mail alla zanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire TG2 con una nuova sigla. Giallo di Carlasco, depositata alla perizia medico-legale chiesta dal giudice, il documento in più punti dà ragione alla difesa di Alberto Stasi, unico imputato. La polemica sul ruolo dell'opposizione alla missione in Afghanistan, per il presidente Napolitano c'è stato un larghissimo sostegno, le becere contestazioni non contano. Nel Varesotto un giovane di 20 anni è stato arrestato assieme alla madre e a un amico per l'omicidio del nonno, ucciso a sprangate, ferita la nonna, incerto il movente del gesto. E caccia aperta a un serpente a sonagli, avvistato ieri nella pineta di Castelfusano, Ostia, vicino a Roma. Impegnati molti uomini della forestale, l'animale è velenosissimo. Va bene, andiamo a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto. Clamorosa svolta nel giallo di Carlasco, la superperizia richiesta dal giudice scagiona Alberto Stasi e lui, unico indagato dopo 2 anni, rompe il silenzio. Sono contento. Massacra i nonni a sprangate, orrore a Varese, l'anziano è morto, la moglie è gravissima, arrestato il nipote ventenne, in cella anche la madre e un amico interrogato. Due titoli di cronaca, i primi titoli di Studio Aperto, 800 24 0024. Iniziamo con alcune battute di Berlusconi alla festa del PDL. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il capo. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il capo. Comunque vi devo portare tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere in spiaggia il sole in due perché ha abbronzato anche la moglie. Di giorno ti vedo, di sera però, purtroppo se non c'è la luna piena, non ti distingo perché sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il carbon. Sempre alla festa del PDL, diciamo che Berlusconi ha dato una mano a quelli che lo vogliono proporre come premio Nobel per la pace. Ricordate la canzone, una delle canzoni che vogliono portare Berlusconi a Stoccolma. La pace tua, guarda anche tu. Dicevo che Berlusconi ha dato una mano a questo comitato. Perché ha dato una mano a questo comitato? Perché insomma si è espresso con diverse carinerie nei confronti dell'opposizione, innanzitutto paragonando la sinistra italiana, domanda, esiste ancora la sinistra italiana, alla sinistra di Pol Pot, addirittura scomodato il vecchio dittatore cambogiano Pol Pot. Sentite, i sinistri di casa nostra hanno cambiato il nome ma sono gli stessi comunisti di prima. 1994, che cosa ebbe a dire? Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna. Per questo siamo stati costretti a contrapporci a loro. E non dimentichiamoci mai che nel nostro paese questi signori sono stati gli adoratori di tiranni sanguinari come Stalin, come Mao, come Pol Pot. C'è un presidente sempre presente. E poi ha messo insieme tutta l'opposizione. Casini si è molto arrabbiato per questo, dicendo che sui soldati in Afghanistan, sulla nostra presenza in Afghanistan, tutta l'opposizione brucia i tricolore, brucia le bandiere dell'Italia, eccetera, eccetera. Sentite. Già che abbiamo toccato il tema dei nostri militari, Noi dobbiamo dire che siamo orgogliosi dei nostri militari, dei nostri carabinieri, dei nostri aviatori, dei nostri marinai che sono là coraggiosamente a difendere la pace, a far crescere la democrazia, e che è una cosa che non accettiamo, ciò che vediamo da questa opposizione che brucia le sagome. Non ci stiamo, non accettiamo che ci sia un'opposizione di questo tipo nel nostro paese. Vergogna, vergogna, vergogna! La pace tua, guarda anche tu. Bene, 800 24 00 24, in questo manicomio italiano c'è spazio naturalmente per il Radio Londra del giorno, l'opposizione berlusconiana, la anti-berlusconiana, la resistenza contro il cattivo cavaliere. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Beh, ci eravamo dimenticati, all'interno di questo variegato mondo, variopinto mondo della resistenza anti-berlusconiana, di Giorgio Bocca l'altro giorno ad Anno Zero. Sentite. A noi stiamo assistendo al desiderio di una parte degli italiani o della parte dei potentati italiani di trasformare la democrazia in democrazia autoritaria. Può darsi che questo tentativo di uccidere la democrazia fallisca, come abbia successo. E Berlusconi è stato molto intelligente, questo è un furbone, lo sapevamo, molto intelligente a fare un regime tollerante e che coltiva tutti i vizi del paese. Vi piace rubare, rubate, volete la ricchezza, sposate un miliardario. La mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Beh, naturalmente all'interno, ripeto, del variopinto mondo della resistenza anti-berlusconiana c'è anche posto per Roberto Saviano, ospite di Daria Bignardi all'Era Glaciale, il quale, autore della berlusconiana Mondadori, eppure firmatario di un appello contro lo stesso Berlusconi, perché di questo si tratta, sulla libertà di informazione, dice che in realtà la libertà di informazione in Italia c'è, però forse manca la serenità, bisogna essere più sereni, e per questo va alla manifestazione del 3 ottobre, sentite. Per quanto mi riguarda, firmare quel documento significa oggi in Italia dobbiamo difendere la serenità di lavorare, la possibilità di scrivere liberamente senza dover pagare con la propria vita privata una propria opinione. Se stiamo a guardare il botteghino, se stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini. Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D? Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica, ha vinto il premio Oscar, tra l'altro. Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora, io le perdono, ma è gravissimo. Umberto D è un capolavoro della nostra cultura. Pasquale Squitieri, buonasera. Buonasera. Lo sa che lei mi ha fatto crocifiggere per 3-4 giorni qui dagli ascoltatori radio per questa cosa qui. Lei lo sa, se ne rende conto, No, vabbè, era così. No, ma lei ha fatto bene, è venuto spontaneo, giustamente, per carità, da regista, da uomo, insomma, di... No, sa anche perché l'ultimo bellissimo film di Clint Eastwood, Gran Torino, sì, tutto ispirato a Umberto D, sia pure stravolto in un'ottica addirittura africana. Sì, sì, cioè è la solitudine di un vecchio che si è storicizzato in questa sua malinconia. Io sentivo la trasmissione di prima, sì, e molte riflessioni, per esempio quella di Giorgio Bocca, dipendono dal fatto che molti dei comunisti italiani, della sinistra italiana comunista, sì, si sono storicizzati in un certo periodo. Loro Così succede anche in letteratura, succede anche... Bisogna dire che Bocca è stato pure fascista, ma insomma lasciamo perdere, questa era la parentesi. Salovino, come no, certo. Ma questo io ne ho parlato a lungo con i miei amici lizzani e altri che hanno vissuto il periodo fascista con tanto di antisemitismo e tutto il resto, eccetera. Ma insomma, però è così chiaro, tornando alla questione di Umberto Di Scudiere, è davvero grave, insomma, uno non è che può conoscere tutto, eh. No, tutto no, ma il problema è che si parlava di cinema, Umberto. No, Di, certo, dal suo punto di vista, dal suo punto di vista chiaramente è una cosa grave. No, perché poi naturalmente mi sono divertito nei giorni successivi con gli ascoltatori dicendo guardate, io non conoscevo Umberto Dino, poi mi sono fatto fare varie copie del film, l'ho visto e tutto, e a dei miei amici me l'hanno addirittura regalato e ho detto io ho però un mito della mia gioventù, della mia adolescenza, che è Lino Banfi, i cui film sono stati rivalutati. Abbiamo invitato Lino Banfi e ci siamo divertiti un po' nei giorni ma io scorsi. Sono molto amico di Lino, anzi volevo fare un film con lui, ma non abbiamo mai trovato il tempo perché lui continua a fare libero e quindi perché è veramente uno straordinario artista, ho visto tantissimi film con Dino cinema di Lino Banfi molto rivalutato. Ma senti, io l'avevo chiamata per un'altra vicenda. Lei sì. Ha affermato oggi di non pagare il canone Rai da non so, di non averlo mai pagato in realtà. Lei sa che c'è stata questa campagna, è iniziata una campagna da alcuni giornali contro il pagamento del canone Rai sostanzialmente dopo la trasmissione di Santoro, diciamo le cose come stanno. Non è un po' esagerata questa campagna? No, il problema non credo neanche che sia la trasmissione di Santoro e il resto. Il problema è cos'è la Rai. Io sono stato, essendo eletto senatore, sono stato 3 anni in Commissione Rai. E quindi ho potuto approfondire il problema. La nostra RAI dovrebbe essere un servizio pubblico, in realtà è al servizio degli spot, della pubblicità, perché con 14.500 dipendenti è una cosa pazzesca. Un carrozzone. Cioè, lavorano circa 1.600 giornalisti, è un parcheggio clientelare per tutti i partiti, attenzione, e con degli studi costosissimi, con delle attrezzature che neanche in America c'hanno, che però non c'hanno i tecnici per poterle usare. La RAI è uno scandalo in questa dimensione. Ma lei non è mai venuto nessuno a rompere le scatole per il fatto che non paga il canone, no? Finanzieri, ispettori vari. Dopo questa trasmissione verranno. No, ma anche perché, mi scusi, io praticamente uso il video per lavoro, cioè io sono parecchi video, perché monto. Ma lei lo monto. Sa che solo lei lo sa che solo per il possesso della televisione ormai lei dovrebbe pagare il canone, no, solo se si ha la televisione. È assolutamente ingiusto, cioè io se vado in un ristorante e non mangio, tutto a più mi possono chiedere di pagare il parcheggio, ma non il cibo che non mi danno, perché io non lo prendo, quindi c'è un servizio che non ricevo, non mi interessa proprio, da parecchi. Ma già la televisione mi interessa poco perché è una grande nemica del cinema, che io questo lo dicevo negli anni 80 ed ero preso a sberleffi da tutti, perché dice ma come, Fellini lavora per la televisione, Antonioni lavora per la televisione, lei sa chi sono Fellini e Antonioni? Beh, questo sì, naturalmente, almeno questo. Oltre a Lino Banfi dico qualcosina in più c'è, vero? Tu chi sei? Non sei nessuno e protesti. In realtà noi abbiamo un problema della televisione in Italia spaventoso, che inizia proprio col film del lunedì della Rai, non c'erano ancora le televisioni. Per cui questa legge che obbliga solo con il possesso del televisore a pagare il canone dovrebbe essere abolita, cancellata. Certo, cancellata. A parte che c'è un'evasione, come lei sa, pazzesca su questa legge. Sì, ma infatti il problema lei è un esempio vivente di questa evasione, tra l'altro. Scusi? Dico, lei è un esempio vivente di questa evasione sul canone Rai, lo dico naturalmente. Totale, sì, non mi interessa proprio. Cioè, loro, se io usassi il servizio che loro mi dà, a prescindere dal fatto che c'è una legge addirittura, perché la televisione in Italia c'è dal 39, quella proprio che trasmette, si vendevano i televisori a 2500 lire l'uno, Radio Marelli, questa roba qua. C'era una legge da allora per cui non si pagava nulla perché era servizio pubblico come la radio. Poi è chiaro, sono entrati gli inserti pubblicitari, è entrato tutto un tipo di attività pubblicistica nella radio, nella televisione, e allora è cambiato tutto. Senta, perché c'è una RAI che continua a chiedere soldi allo Stato, tutti gli anni, al governo, allo Stato, a tutti i cittadini. Cioè non bastano manco quelli del canone. Non basta né gli spot, non basta. Se lei fa un confronto fra quanta gente lavora per modo di dire, perché è da ridere, lavorano in 300 sì e no, e quanti in media? Se lei capisce subito, perché da 14.500 a 3.500-3.600 c'è una bella differenza. Ora, il problema è questo, che noi abbiamo una televisione, poi tre canali, che non c'ha nessuna televisione diciamo statale nel mondo, cioè tre canali. Sì, no, ma fosse per me privatizzerei tutto, per cui forse sì, un canale, terrei un canale pubblico e due... Un canale pubblico, sì. E poi privatizziamo il resto. Senta, le voglio chiedere un'ultimissima cosa, proprio un flash sulla vicenda di Polanski, ha letto? Ai, dolorosissima, perché io sono amico di Roman. Dopo tanti anni la giustizia americana non perdona. Però lei ricordi questo. Le parlo di un condannato a morte che diventò scrittore, Karel Chessman, che scrisse un libro famosissimo, c'è la 2445, Il braccio della morte, che ebbe un successo mondiale. Bene, lui era condannato a morte per stupro, non aveva ucciso nessuno. È grave non conoscere questo libro? No, non è grave, però le do questa informazione. Sì. Che succede? Che in America vige la legge del piccolo Lindbergh, cioè il figlio di Lindbergh fu sequestrato dopo il successo di suo padre che trasvolò l'Atlantico, eccetera. Il piccolo Ben fu sequestrato e poi fu ucciso. Gli americani promossero una legge che si chiama Baby Lindbergh, proprio per cui il sequestro di persona è condannato con la pena di morte. Lo stupro prevede il sequestro della persona. Capito. E infatti lo è un sequestro della persona. Ecco, quindi il signor Karel Chessman, dopo 18 anni di ricorsi, di cose, con tutta l'opinione pubblica mondiale, finì nella Camera a gas. Questa è la legge americana. Che piaccia Roman, o meno. Piaccia o meno, è così. Roman non è condannato a morte, eccetera, per carità, è un grandissimo autore di cinema, è una persona straordinaria, però avrebbe potuto negli anni tornare negli Stati Uniti, dialogare con i giudici, scontare anche una pena minore probabilmente. Il fatto che lui, dopo la tragedia della moglie, dopo tutto quello che gli è capitato, eccetera, si sia rifugiato in Europa, eccetera, per la legge americana è uno sberleffo. Assolutamente. Grazie a Pasquale Squitieri. Devo fare anche a lei un piccolo rimprovero, perché Umberto D non ha vinto Oscar, è stato però... Non ho detto che Umberto D ha vinto Oscar, ho detto che De Sica ha vinto gli Oscar. Ah, De Sica. No, Umberto D è stato in nomination, però non ne ha mai vinti. Grazie, buona serata. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Napolitano a Berlusconi, l'opposizione sostiene le missioni all'estero, c'è un consenso largo non scalfito da qualche indegna contestazione. Sono quasi 500.000 gli assegni di disoccupazione pagati dall'INPS, in un anno la cassa integrazione cresce di oltre il 200%. Giallo di Garlasco, una perizia voluta dal giudice dà ragione alla difesa di Alberto Stasi, finora unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'Iran non si ferma, testati nuovi missili a lunga gittata, ora dice il regime possiamo colpire Israele, cresce la preoccupazione in Occidente. Sciocca ad Agrigento, la squadra cittadina vince la partita e il presidente la dedica ad un boss mafioso, il questore messaggio devastante. Gli studenti dell'Onda in piazza Bologna contro i respingimenti di migranti, contestato il ministro Maroni, scontri e lanci di vernice. I ministri degli esteri francese e polacco chiedono alla Clinton la libertà per Polanski, che rifiuta l'estradizione, arresto sospetto, dice Kushner. Andiamo a sentire anche Sky TG24. Delitto di Garlasco, la perizia super partes smonta le accuse ad Alberto Stasi. Afghanistan e polemiche, l'opposizione sostiene la missione, dice Napolitano. Lavoro, l'INPS rettifica, disoccupati cresciuti di 450.000 unità. Germania parte un'altra era, vertice Merkel liberali per una nuova coalizione. Iran sfida continua, testati con successo i missili che possono colpire Israele. Da Praga il monito di Benedetto XVI, servono leader credenti e credibili. Tempesta nelle Filippine, 140 vittime, Manila chiede aiuti internazionali. Dipendenti delle discariche in sciopero, Napoli teme un'altra emergenza rifiuti. Agrigento, la squadra vince, il presidente dedica il successo all'amico boss. Nemici di Mourinho, avanti un altro, Zeman lo attacca e il portoghese lo ignora. Eccoci qui, 800 24 00 24, fra poco le vostre telefonate sempre al centro di questo programma, ma abbiamo notato, captato, afferrato, rubato alcune sviolinate di Emilio Fede nel weekend su Berlusconi, il compleanno, l'Aquila, eccetera, eccetera. Lui ha scelto il giorno del suo compleanno, non volevamo dirlo, spegnerà le candeline simbolicamente o comunque sia, o forse bevendo anche uno spumante, un bicchiere di spumante con le famiglie che torneranno in una casa vera dopo la distruzione del terremoto. Molto molto applauditi sono stati i suoi interventi quando ha annunciato che all'Aquila inaugurerà altri appartamenti per i terremotati martedì prossimo. Le persone qui hanno tributato un lunghissimo e commosso applauso. Va bene, alta, avremo i passaggi, gli applausi sono sempre di entusiasmo, la commozione ovviamente specie nel Abruzzo è tanta. Vedete, è pienissimo, c'è una grande folla che lo ha accolto, l'ha salutato ovviamente con applausi e cantando meno male che Silvio c'è. Berlusconi è ottimista, è sempre stato ottimista, ancora di più lo è oggi, specie dopo gli incontri a livello internazionale. Dice dunque il paese deve avere fiducia, deve avere ottimismo, è inutile ascoltare, seguire chi tenta per ragioni ovvie di seminare invece pessimismo. Si riferiva questa sviolinata di Fede a Berlusconi all'intervento di Berlusconi alla festa del PDL, dove Berlusconi non si è fatto mancare battute, come sapete, la prima sugli abbronzati, la coppia di abbronzati Michelle Obama e nel passato, come sapete, fonte di polemiche, il marito Barack. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il capo. Comunque gli devo portare tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere in spiaggia il sole in due perché ha abbronzato anche la moglie. E poi battute anche sul compleanno, sugli anni che compie, sentite. Io martedì festeggerò i miei 37 anni. Sapete che non sono forte in aritmetica, in matematica, sono 37, conferma il direttore Feltri, consegnando dopo le prime 94 villette i primi 500 appartamenti, i primi di 4.000 appartamenti che andranno a 30.000 sfollati che hanno perso la casa. Andiamo a sentire un po' di teatrino della politica, non perché quello che avete appena sentito non sia teatrino della politica, direttamente però in Parlamento questa volta e non durante un comizio. Protagonista, uno dei soliti protagonisti del nostro teatrino della politica, il deputato barbato Italia dei Valori, sempre scatenato su Berlusconi di qualsiasi cosa si parli. In italiano come si dice? No, non esiste escort, esiste puttana. Quindi noi abbiamo un presidente del Consiglio, non escortiere, ma puttaniere, giusto per essere precisi con l'italiano. Allora, come Italia dei Valori, noi preferiamo anche cose così più che ti fanno sorridere. È preferibile avere un presidente del Consiglio puttaniere, per la verità, anziché avere un presidente del Consiglio. Così, se continua, abbia. Sta andando così. Va bene, anche se italiano, presidente. Sì, italiano, non penso che sia consono al ruolo che lei ha in quest'aula. Vabbè, tutto questo in Parlamento. Ascoltatori all'800 24 0024, mi sono stancato di queste cose. Oggi Gianni da Milano, buonasera. Buonasera, io le telefonavo per la televisione. Ma la questione del canone, il canone era... Ma come fa Berlusconi a togliere il canone dalla televisione? Se andrebbe contro i suoi interessi, non lo farebbero mai. Finora non mi sembra che sia una proposta del governo. Ma è una proposta di giornale, è una propaganda. Perché cosa farebbe la televisione per vivere, la provvisione di Stato? Dovrebbe aumentare la pubblicità, o no? Infatti oggi D'Alema dice si può anche togliere il canone, basta che si levi il tetto pubblicitario che hanno le reti RAI. Gianni, anche secondo me il canone non verrà mai tolto. Giulio da Pistoia, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Io poco fa, tra l'altro, vi ho mandato un sms dove dicevo, ma è sempre i soliti messaggi Radio Londra, non ce ne sono ancora di diversi. Beh, Radio Londra di oggi c'è la bocca, ma che vuole, si grida sempre al regime. D'altra parte Radio Londra esiste per questo, perché c'è gente che oggi nel 2009 grida al regime, al fascismo, eccetera, eccetera. Vabbè. Io avevo chiamato perché ho una mia idea su ciò che è accaduto a Polanski. Ah, la sua idea qual è? La mia idea potrebbe anche essere campata per aria, per carità. No? Vediamo, insomma. No, io ho l'impressione che l'arresto di Polanski e la conseguente estradizione degli Stati Uniti sia una specie di patto sotterraneo con gli Stati Uniti in modo tale che non richiedano gli altri nominativi e quindi i soldi degli evasori fiscali che la Svizzera non gli vuole dare. Scusi, in cambio di Polanski che cos'è che darebbero gli Stati Uniti alla Svizzera? Sì, cioè mollerebbero sulla questione delle liste degli evasori? Esatto. Guardi, io non credo che, primo, che la cosa sia gestita dal governo americano, questa vicenda di Polanski. Secondo, cosa vuoi che importi al fisco americano di Roma, dell'estradizione negli Stati Uniti di Roman Polanski? Non credo sia così, Giulio, così a occhio e croce. La ringrazio. Gabriele da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Allora, io divento matto quando sento parlare di regime. Lo dica a me. No, io poi non sono apolitico, quindi non mi piace ascoltare. L'unica cosa che non capisco è che se io però vado in edicola, trovo i giornali di tutti i partiti e io scelgo. Se guardo la televisione, ho un telecomando e scelgo se vedere Santoro, Fede, cose del genere. Ho internet. Se voglio mi informo liberamente su internet. Scelgo io quello che leggere e quello che non leggere. Stessa cosa per i libri. Stessa cosa per tutto quello che c'è nella società. Quando si viene a parlare di regime, secondo me qualcuno dovrebbe informarsi o vedere nei posti dove c'è stato questo regime. Se si vede qualche trasmissione di Karen TV, si vede magari che a Cuba non c'è internet, c'è solo una TV. E questo che a me, perché cioè mi sento come se vivessi in un paese di inetti. No, Gabriele, è la proporzione tra le frasi che si usano e la realtà. Eccoci, 800 24 0024. Se non volete parlare sempre delle stesse cose, c'è un altro spunto interessante da questo servizio che sentirete dal TG5, ma la notizia forse la conoscete. È il presidente di una squadra di calcio siciliana, l'Acragas di Agrigento, che ha dedicato la vittoria della sua squadra a un presunto boss mafioso, comunque qualcuno arrestato per mafia nei giorni precedenti. Sentite. È stata una vittoria netta, schiacciante. L'Acragas Calcio, che gioca nel campionato di eccellenza, ieri ha vinto 5-0 contro lo Sporting Arenella. A fine partita il presidente della squadra ha chiamato i giornalisti per commentare il risultato. Gioacchino Sferrazza, 45 anni, titolare di una catena di negozi di giocattoli e articoli da regalo che ad Agrigento ha almeno 5 punti vendita, aveva voglia di dedicare a qualcuno la vittoria della sua squadra, a qualcuno in particolare, a un amico fraterno, a Nicola Ribisi. Ma i cronisti sportivi si sono rifiutati di raccogliere la dedica. Ribisi infatti è stato arrestato appena 10 giorni fa con l'accusa di associazione mafiosa, indicato come il capo della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro, rampollo di una stirpe legata agli equilibri criminali della provincia di Agrigento. Sferrazza è rimasto deluso, non vedeva niente di male nel dedicare la vittoria e dare la propria solidarietà ad un amico. Per ripicca verso i giornalisti che non volevano riportare le sue parole, ha imposto il silenzio stampa a tutta la squadra. Io ho dedicato la vittoria all'amico Nicola, non al boss, perché almeno fino a quando non entra nel merito, nel giudizio, io non posso dire se è colpevole una persona o innocente. Il questore di Agrigento Girolamo Di Pazzo non... Bene, questo accade ad Agrigento, intanto andiamo a Foggia. Mauro, buonasera. Sì, buonasera, salve. Dica. Sì, volevo intervenire per quanto riguarda il canone TV. Allora, sì. Premesso che io lo pago, però volevo dire che la democrazia dei giornali non ha limiti, perché comunque la tassa del canone TV è una tassa di possesso, quindi a prescindere da tutto va pagata, perché comunque se non viene pagato il cittadino viene vessato dall'Agenzia delle Entrate tramite la riscossione coattiva, perché arriva la cartella esattoriale, quindi non è proprio possibile non pagare il canone attualmente con la legge vigente. Mauro, da quello che ho letto si potrebbe inoltrare una richiesta per farsi sigillare i televisori in casa. Vabbè, ma siccome non verrà mai nessuno a sigillare il televisore, manderanno semplicemente la cartella esattoriale, trascorsi i quali i termini di scadenza verrà qualcuno a fare il pignoramento di mobiliare, e quindi comunque va ma pagata. Io non lo so, perché prima bisogna che qualcuno passi a farsi a sigillare i televisori. Cioè, se tu, uno, almeno da quello che ho capito io e secondo quello che è stato scritto da due giornali come Libero e Il Giornale, deve passare qualcuno a suggellare il televisore. Cioè, si può mandare una raccomandata dicendo di non voler più possedere un televisore, eccetera eccetera. Ci sono i moduli, ormai li trovate su tutti i giornali, e da qui inizia un procedimento che porta a suggellare il televisore. Una volta si faceva con l'aiuto. Non verrà mai nessuno a suggellare il televisore, perché lo Stato, giustamente intelligente, non manda nessuno, però ti manda la cartella esattoriale successivamente. Non so, questo può darsi, inizia un contenzioso, diciamo, no? Esatto, però chi è che ci rimette? Il cittadino che adesso, preso dalla voce di non pagare il canone, non paga il canone, però poi fa un anno si ritroverà a pagare l'imposta più le spese accessorie e tutto quanto. Quindi c'è soltanto una presa in giro, perché non esiste non pagare il canone attualmente. È come se io avessi una macchina, ce l'ho ferma e dicono non pago il bollo. Il bollo va pagato comunque, perché ho il possesso dell'auto. Devo fare giustamente la perdita del possesso, vendere l'autovettura per non pagare. No, ma ho capito, Mauro, è appunto su questa base, su questo... al di là delle disquisizioni giuridiche, che pure sono importanti, la questione è molto semplice. Pare che ci sia un modo per non pagare il canone, o comunque chiedendo sostanzialmente di farsi sequestrare il televisore, diciamo così. Secondo lei invece non arrivano i finanzieri, ma arriva la cartella esattoriale? Non lo so, poi non mi addentro nei particolari. Grazie Mauro. Roberto da Roma. Salve Cruciani, mi sente bene? Sì, dica. Senta, io l'ascolto sempre, o in diretta quando viaggio, oppure la notte quando c'è la replica. La ringrazio. Devo dire che non sono sempre d'accordo con lei, ma molto spesso sì. Ora, su questa faccenda del canone, mi sembra che l'informazione che c'è fra la gente, che io mi sono andato a vedere, non sia, cioè nessuno capisce bene la cosa. Il problema, e sono d'accordo con lei che l'ha detto poco fa, che non lo leveranno mai il canone, perché c'è un tetto pubblicitario che permette, diciamo, alle aziende di Berlusconi di avere il 60%, la RAI di pubblicità, in virtù del tetto che esiste per mitigare la faccenda, non ha più del 29%, pur avendo un ascolto globalmente superiore a quello di Mediaset. Perciò, se tolgono il canone, che può essere una cosa, privatizzare la RAI, eccetera, devono togliere anche il tetto alla pubblicità. Ecco perché non lo faranno mai, perché non conviene al capo in testa. secondo me. Non lo so come la pensa lei, ma... Roberto, non lo so, io penso che tutto... Sono dati recentissimi quelli che li do. Sì, no, ma al di là dei dati recentissimi, credo che l'unica strada possibile per una riforma generale Rai sia quella di privatizzare due canali e di lasciare una sola rete pubblica. Per quello che riguarda il canone, naturalmente ogni giornale fa una campagna, il giornale Libero fa una campagna, soprattutto dopo la vicenda di Santoro, è legittimo farla. Secondo me non ci saranno tantissime adesioni, appunto per quello che diceva prima l'ascoltatore, cioè comunque il timore che poi le cose si possano trasformare in rogne, cartelle sattoriali, eccetera, eccetera. Danilo da Roma, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Ecco, tra l'altro mi riallaccio, sentivo proprio adesso la conversazione dell'ascoltatore precedente, sempre per il discorso canone. Ecco, il signore infatti parlava del limite del tetto del 70%. Sì, tra l'altro degli ascoltatori invece mi scrivono: non pago regolarmente il canone da 10 anni senza avere nulla in contenzioso, se vuole mi chiami. Non ho il televisore, Marco da Bari, un altro ancora, mai pagato il canone, sono un lavoratore dipendente, l'unica tassa che posso evadere la evaderò, Andrea da Padova. Beh, allora su questo do la mia testimonianza, non era questo che volevo dire, però approfitto per dare la mia testimonianza diretta, essendo che io praticamente ho fatto... Un altro messaggio ancora, mi scusi, non esiste cartella esattoriale finché non venga dimostrato il possesso del televisore. Beh, questo insomma è falso in assoluto, perché nella pazzia e nella follia della gestione del sistema in Italia, visto e considerato che oggi praticamente al limite del tetto di una certa somma di denaro sostanzialmente, eccolo là che loro mandano cartelle esattoriali a random, io ho a casa la cartella esattoriale causa trasloco e quindi tutta una serie insomma delle solite vicissitudini casinistiche che capitano durante i traslochi, la cartella esattoriale perché non ho pagato il canone della RAI, perché non che non lo volessi proprio pagare, ma di fatto perché comunque una serie di dimenticanze, diciamo così insomma, fino all'altra l'indirizzo precedente ero regolarmente pagatore. In ogni caso non volevo intervenire solamente per dire questo, ma volevo diciamo dire che alla fine, ecco, il signore precedente diceva c'è questo tetto del 70%. Beh, allora voglio dire, ma visto che dobbiamo togliere le soldi alle tasche degli italiani, ma perché questo tetto pubblicitario non viene eliminato? Numero uno. Numero due, voglio dire, in ogni caso, ad oggi, guardando Mediaset e guardando Rai, cosa che io faccio pochissimo, la Rai la guardo pochissimo, dov'è questa grandissima differenza in termini di pubblicità che digeriamo più o meno costantemente? Quindi non capisco proprio, cioè il canone mi dà proprio il senso del fatto che mi vengano tolti dei soldi dalla tasca, numero uno, perché non è detto che io voglio vedere la Rai, cosa che spesso non faccio, non la guardo nemmeno la Rai, numero uno. Quindi la trovo proprio una cosa ingiusta che mi vengono tolti dei soldi dalle tasche per un qualcosa del quale manco usufruisco. E poi ci sono dei sponsor che magari vogliono anche usufruire di spazi pubblicitari. E santa miseria, facciamo pagare a loro. Ma se c'è un qualcosa che può essere tolto, dico io, no? Ma perché non viene tolta? La ringrazio Danilo, la ringrazio. Aldo da Sondrio, buonasera Aldo. Buonasera Cruciani, senti, io non la voglio tediare con questo discorso del regime sì, regime no, però qualche riflessione la vorrei fare. Io rimango perplesso quando vedo che il nostro Presidente del Consiglio si permette di dire qualunque cosa e trova persone che lo applaudano, qualunque battuta faccia, qualunque cosa dica, anche cose francamente abbastanza imbarazzanti e sconvenienti, come tornare su questo discorso dell'Obama abbronzato e via dicendo. Insomma, io penso che sì, il regime magari non c'è, però mi sembra un po' triste la considerazione, quella che faceva anche l'ascoltatore prima, qualche intervento fa, diceva io posso leggere qualunque giornale, andare su internet, ma mi sembra un po' triste, le dicevo, dover semplicemente constatare che per fortuna fino adesso siamo liberi di informarci e di leggere ciò che vogliamo. Cioè, questo glielo dico per dire che la democrazia e la libertà sono qualcosa di molto delicato e non, secondo me bisogna stare attenti a sottovalutare i potenziali pericoli. Lei non crede? Sì, ma questo in generale. In generale, però in Italia la situazione per certi versi secondo me non è che sia molto rassicurante, senza usare diciamo... E quali sarebbero i sintomi? Guardi, io le dico, io vedo che il fatto stesso che un ministro delle attività produttive intervenga a gamba tesa sul discorso di... Ma quello fa parte, come lei sa, del teatrino della politica e del dibattito politico. Teatrino, però Cruciani, scusi un attimo, quando sento il ministro Brunetta che definisce una parte dell'Italia cattiva, un'Italia di merda, mi scusi il termine. parte che una parte della sinistra, non una parte dell'Italia, cioè una, però parte... una parte anche dell'Italia, perché ma quello era un giudizio politico certamente sbagliato, magari nei termini, un giudizio politico su una certa sinistra, secondo Brunetta naturalmente, no? Poi saranno stati sbagliati i termini, le cose, per carità, abbiamo dato addosso a Brunetta anche su questo. Però, ma cosa c'è di preoccupante? Qual è la preoccupazione dopo le frasi di Brunetta? Lei è preoccupato per che cosa? Brunetta è stato un decimo volgare di tutte le cose che sono state sputate addosso a Berlusconi e allo stesso Brunetta negli ultimi 14 anni. No, ma io voglio anche dire che, per esempio, Di Pietro assolutamente cede, dice delle cose strampalate, improprie quando accusa di Berlusconi. Secondo me coglie alcuni punti della questione, però è eccessivo nell'accusare Berlusconi di nefandezze, paragonandolo addirittura ai dittatori. Però non dimentichiamo che comunque Berlusconi è un personaggio che concentra nelle sue mani una quantità di mezzi e di potere come non si era mai visto. Una cosa nuova questa qua, Aldo. Non è nuova, però voglio dire, Cruciani, non sottovalutiamo. Ma è una cosa che è un discorso che facciamo da 15 anni ed è anche stancante, Aldo, francamente, che fa campare un sacco di gente, peraltro, nell'anti-berlusconismo militante. Va bene, Cruciani, la ringrazio. Grazie a lei, Giuseppe da Milano. Cruciani, ma fa campare anche quelli che sono pro Berlusconi, Può darsi, no? Beh, lei è uno di questi. Io quindi, non sono affatto pro Berlusconi. Lei vuole avere il monopolio della critica a chiunque. Alla ma lei può criticare qui, critichi, non chiacchieri, critichi. Può dire quello che vuole. Lei è talmente livoroso che... Io livoroso? Ma io non sto affatto livoroso. Lei è partito dicendo lei è pro Berlusconi, non sono affatto pro Berlusconi. Poi se vuole dire quello che vuole, dica pure tranquillamente. Ma io voglio dire solo questo. Speriamo che le liberino il posto di Emilio Fede, così lei prenderà il suo posto. Vedremo, possibile. È possibile anche questo. Lei è sulla strada buona. Va bene, questo il suo intervento. È molto, come dire, molto pertinente. No, Giuseppe? Vuole. E lo giudichi come vuole. È il suo diritto. Cioè, lei voleva dire questo, voleva intervenire per dire. No, volevo dire altro. E allora dica altro. Vada no, pure. Così, non le dice niente la questione di Filippo Facci, che io apprezzo moltissimo e che dichiara di dover andare via dal giornale. Perché non può scrivere quello che ritiene di dover scrivere? Sulla Carfagna. Ma su chiunque, casomai. No, lui ha detto una cosa, Giuseppe, lei deve essere preciso quando cita le cose. Sì, però. Ci mancherebbe, però vede... Ho detto per 20 anni ho potuto scrivere quello che mi pare. Ma io sono preciso perché l'ho sentito benissimo. Tra l'altro Filippo Facci è una persona che io ho sempre seguito ed è sempre stato equanime nelle due... Naturalmente adesso è diventato il suo idolo. No, ma ci mancherebbe, guardi che i miei idoli non sono i martiri, ma neanche i cattivi. A parte che Filippo Facci non fa il martire, insomma, comunque. Ma no, non è questo, guardi che nessuno vuole fare né il martire né l'eroe. Ma allora qual è il punto, Giuseppe? Perché mi ha citato Facci? Perché le cito Facci perché ritengo che sia una persona che nonostante sia targato, perché dice lavora per il giornale. Secondo perché... me non è targato per niente Facci. Ma è questo che voglio dire, nonostante lavori per il giornale ha una obiettività e non diventa livoroso se uno tocca Berlusconi o tocca... Uno deve avere il diritto di criticare chiunque. Ma certo, guardi che abbiamo passato le ultime 10 trasmissioni a prendere in giro Berlusconi, se lei non se n'è accorto mi dispiace. No, io me ne accorgo benissimo, però vede, lei vuole avere il diritto di prenderlo in giro come ritiene lei, se un altro usa un altro termine lei subito fa così l'infastidito e questo non è giusto, non è bello, almeno per chi ascolta. Giuseppe, ma dica la sua tranquillamente. Ma l'ho già detto, la ringrazio per l'ospitalità. D'accordo, grazie a lei. Fabio da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo collegarmi a quello che ha detto l'ascoltatore di prima in quanto il canone. Secondo me è una cosa che non serve a niente. Faccio un discorso un po' egoistico, però ad esempio io prendo un televisore, devo per forza pagare il canone. Cioè, prescindendo che io, ad esempio, Rai 1, Rai 2, Rai 3 non li voglio guardare. Sì, d'accordo, ma era una tassa. È una tassa sul possesso di apparecchi audio televisivi, una cosa del genere. Di monopolio, cioè come se io compro un computer, deve esserci per forza Windows dentro. Io non lo voglio. Quindi, come tutte le cose, comunque. Guardi, c'è stata anche una lunga battaglia giuridica da questo punto di vista, con sentenze della Corte Costituzionale. Uno potrebbe dire purtroppo. Però è così, la tassa è stata confermata anche dalla Suprema Corte. Poi si può ricominciare un'altra battaglia volendo. Va bene. Lei che vuole fare? Lo paga il canone, Fabio? Assolutamente no. Dunque fa parte di quel, quant'è l'evasione? 20-30%, una cosa di questo tipo. Grazie, grazie Fabio. Non si dichiari così apertamente, magari viene qualche visita tra qualche giorno. Ha paura lei? No, per carità. No, assolutamente. Cioè se le bussano non fa entrare nessuno? No, poi guardo sempre dallo spioncino. Lei è numero uno assoluto, Maurizio da Genova. Lei è un grande, buonasera. Maurizio da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Niente, solo questo. Io sono, vabbè, mi collego al discorso del pagamento del canone. Io sono 22 anni che non ho la televisione e mi era arrivata qualche lettera per intimarmi di pagare il canone, come se fossimo tutti obbligati ad avere una televisione, ma non avendola io non l'ho pagato e non mi è arrivato poi più altro. Ma non era tanto questo che volevo dire, quanto fatto che qualche tempo fa avevo letto un articolo dove mi sembrava di capire che la RAI pagasse un canone di concessione governativa sulle radiofrequenze molto più alto rispetto a Mediaset, proprio perché aveva il canone degli abbonati. Quindi non pagando il canone diminuirebbe senz'altro questa tassa di concessione, per la RAI non cambierebbe niente perché girerebbe meno soldi allo Stato, cambierebbe solo per lo Stato che riceverebbe meno meno entrate dai cittadini. Guardi, non lo so francamente, avevo letto tipo Mediaset paga 1 milione di euro e la RAI ne paga 150 milioni di euro di concessione governativa. Era un rapporto di questo tipo, adesso posso sbagliarmi, ma quindi il discorso del canone mi sembra una cosa molto fine a se stessa, un discorso abbastanza sterile. Cioè che cos'è sterile? Il pagare o non pagare il canone, cioè se si vuole danneggiare la RAI, credo che non si possa danneggiare la RAI non pagando il canone, visto che non è una quota che rimane nei bilanci della RAI ma viene versata allo Stato, quindi meno entrate alla RAI dal canone, meno... Cioè lei dice che il canone RAI poi va nel calderone della fiscalità generale, non va direttamente nelle casse della RAI? No, viene ripagato dalla RAI attraverso le concessioni governative e viene pagato allo Stato. Quindi avendo meno entrate probabilmente dovranno per forza ridurre anche la concessione governativa, senza contare appunto il tetto pubblicitario che senz'altro dovrebbe essere rivisto. Quindi non capisco proprio il discorso del canone. Ma è una questione naturalmente di principio, penso. Cioè si paga per un prodotto che non si controlla più. Questo è il discorso che fanno il giornale Libero. È un prodotto in cui ci sono trasmissioni mandate in onda per una sentenza della magistratura, in cui ci sono organici pletorici, eccetera, eccetera. Questo è il discorso, ripeto, che fanno Libero e il giornale. Alessandro dalla provincia di Varese, buonasera. Alessandro, mi sente? Non mi sente più. Paolo, provincia di Padova. Sì, buonasera. Eccoci. Ascolti, Cruciani, io non volevo, visto che poi c'è stata una telefonata poco fa che praticamente ha ripetuto quello che volevo fare io praticamente. Lei stesso, io l'ascolto praticamente tutte le sere appena mi è possibile quando torno dal lavoro e l'ascolto attentamente, sottolineo. Noto che quando si tratta di prendere in giro, di leggiare l'opposizione, che per carità si presta molto a questa arte, lei è sempre pronto. Al contrario, quando si tratta puntualizzare o evidenziare eventuali comportamenti delle forze di governo di Berlusconi o chi per esso di altri personaggi di governo, lei è molto morbido, molto tenero. Noto anche che quando a lei si fa notare questo si scalda facilmente, si irrita e coglie sempre l'occasione di negare questa cosa. Però, Paolo, infatti tanto sono irritato che la sto facendo parlare tranquillamente senza interromperla. Ho una grande irritazione, sono molto irritato. No, più che altro sono annoiato, non sono irritato da questa discussione. Beh, ma mi scusi, allora, se effettivamente lei riceve molte telefonate che vanno in questa direzione, vuol dire che il problema esiste. Cioè, magari non mettiamolo come un problema, perché probabilmente a lei poco importa. Però insomma, no, se lei vuole essere, a me importa. Se lei vuole essere così obiettivo da non dare questo tipo, diciamo, di impressione, dovrebbe, secondo me, perché in realtà, secondo il mio modesto parere, sì, condurre la trasmissione in maniera diversa. Paolo, io non mi faccio condizionare dalle telefonate che arrivano in onda, perché naturalmente le utilizzo e parlo volentieri con gli ascoltatori, ma non è che penso che siano un campione esatto di quello che c'è al di là della... dell'etere, per cui cosa vuole che le dica? Se lei ha ascoltato la trasmissione negli ultimi 10-15 giorni, quello che è stato detto, i nostri commenti, i nostri giochi su Brunetta, su Berlusconi, sul premio Nobel per Berlusconi, su alcune frasi del Presidente del Consiglio, se lei ha ascoltato bene, e credo che non abbia ascoltato bene, non può dire quello che sta dicendo. Abbia pazienza, io la ascolto da qualche anno ormai. Le do questa impressione. Quando il governo c'era la sì, forza che adesso è all'opposizione, lei era ben più, diciamo, punzecchiante, ben più caustico rispetto a quello che è tutto. Questa qua è una cosa che si evidenzia. E ripeto, Paolo, non so come risponderle a questa cosa. Io ragiono con la mia testa, capito? Non ragiono con la testa di qualcun altro. No, certo, ma allora ragiono con la mia testa, punto. Non ho riferimenti partitici o cose di questo tipo. Certo, ma allora, in virtù di questo, non si irriti quando... Ma chi si irrita? Io non sto irritato, sto dicendo che è noioso, non è irritante, è noioso, è diverso. È noioso parlare di questo, però se lei vuole continuare a parlarne, dopo ci sono i titoli dei telegiornali, andiamo con i titoli del TG5, poi torniamo a Padova, in provincia di Padova, con Paolo, TG5. Delitto di Garlasco, una perizia medico-legale super partes scagiona Alberto Stasi, finora unico indagato per la morte di Chiara Poggi. Feltri al TG5, ecco perché sono innocentista. Napolitano, sulla missione a Kabul pieno sostegno dell'opinione pubblica e delle forze politiche, contro i nostri soldati solo becere contestazioni che non contano. Il presidente dell'Acragas Calcio di Agrigento dedica la vittoria della squadra a un boss appena arrestato. Scoppia la polemica, lui replica: per me resta un amico. 1 milione le domande di disoccupazione, 450.000 quelle liquidate dall'INPS in un anno. Picco negativo ormai alle spalle, rallenta il numero dei beneficiari dei sussidi. Manila sommersa dalle piogge torrenziali, 140 morti, decine di dispersi. La tempesta tropicale travolge le Filippine, urgono aiuti internazionali. Dopo il TG5 Striscia la notizia su Canale 5, una grande storia d'amore e spionaggio con Raul Bova in Intelligence. TG1, sentiamo. Svolta nel giallo di Garlasco, la superperizia scagiona l'ex fidanzato di Chiara Poggi, orari e tracce confermano l'alibi. Napolitano, sostegno opposizione a missioni di pace, un dato che non può essere scalfito da episodi di becera contestazione. L'Iran provoca testati missili a lunga gittata in grado di colpire Israele, giovedì a Ginevra alla riunione dei negoziatori. Pensionato ucciso in una villa nel Varesotto, grave la moglie, arrestati il nipote acquisito, la nuora e un complice. Cuffie e auricolari, musica troppo alta per le orecchie. UE, abbassare volume lettori MP3, i produttori hanno 24 mesi di tempo. Da domani il nuovo gioco della Sisal, in palio una rendita di 4.000 euro al mese. Il ricavato dello Stato andrà all'Abruzzo. Sbaglio, l'Unione Europea si occupa del volume alto dei lettori MP3. Va bene, Paolo, provincia di Padova, ci sta parlando di questa trasmissione e del suo conduttore. Prego, Paolo. Ascolti, allora, volevo terminare perché non vorrei sembrare troppo noioso. No, per carità. Questi argomenti l'annoiano. No, annoiano me, magari non annoiano gli ascoltatori, non lo so. No, faccio un esempio anche. Prima, l'altro ascoltatore, quando ha parlato di Filippo Facci, sì, lei prontamente ha detto... adesso è diventato il suo idolo. Cioè, ma lo sa perché, Paolo? Lo sa perché ho detto questo? Perché quando, e l'ho fatto parecchie volte e lo farò parecchie volte, ho chiamato Filippo Facci in questa trasmissione, arrivano valanghe di messaggi contro Facci, berlusconiano, contro Di Pietro, per partito preso, ossessionato da Di Pietro e cose anche peggiori. È bastata una intervista ad Anno Zero per ribaltare, naturalmente non nei suoi confronti sto dicendo, ma agli occhi magari di altri ascoltatori questa immagine di Facci berlusconiano, e improvvisamente è diventato la prova vivente dell'esistenza di un problema di libertà di informazione in Italia, no? Guardi, Cruciani, credo di essere abbastanza informato. È capitato quello che capitò al suo tempo con Montanelli, che prima era, diciamo, sbeffeggiato, odiato dalla sinistra, poi nel momento in cui lui si è schierato, tra virgolette, contro il suo ex titolare, diciamo così, è diventato l'idolo. Ma io non voglio scendere a questo tipo, diciamo, di... anche perché Facci, io lo stimo tutto sommato, è chiaro comunque che colpisce un po' questa sua, diciamo, l'intervista che ha fatto da trasferire lì nel programma, sì. Ma infatti io non è che sono sempre d'accordo con quello che dice Filippo Facci, pur stimandolo, quando ha detto la libertà di alla domanda la libertà di espressione esiste, c'è un problema di libertà di informazione, non mi ricordo come fosse la domanda, lui ha detto sì, non sono d'accordo, ma non essere d'accordo con quello che dice Facci non mi sembra che sia reato di lesa maestà, no? Mi scusi, qualche mese fa lei l'ha fatto intervenire in trasmissione, sì. Diciamo in primavera ancora, sì. E si parlava più o meno di questo argomento, e alla domanda che lei, se non ricordo male, in un certo punto lei a chiusura diciamo della conversazione gli ha chiesto ma secondo te o secondo lei esiste un problema, diciamo, di libertà o qualcosa del genere in Mediaset, cioè in Mediaset, nel gruppo, diciamo, sì. E lui rispose di sì, lei rimase ammutolito. Ma non rimase ammutolito, ho registrato, punto, non so, non sono dentro Mediaset, per cui non posso rispondere sì o no, secondo Facci sì, secondo altri sì, secondo Mentana sì, ci sarà pure un problema di militarizzazione di Mediaset, punto, allora? No, comunque... Cioè sono d'accordo, potrei essere d'accordo, non lo so, non vivo all'interno all'interno di quell'azienda, sì. Per cui non lo so nemmeno percepire dall'esterno, può darsi che ci siano alcuni sintomi, sì. Di questa militarizzazione berlusconiana, sì. Di Mediaset. Ma no, ma va bene, non esageriamo adesso con i termini. Comunque quello che, ritornando a lei, diciamo, sì. Secondo me non c'è nessun problema a... Cioè, voglio dire, tutti abbiamo un'opinione, chiaramente. Sì, più che appunto. Per quale motivo lei si ostina a non ammettere, diciamo, il fatto che lei magari è più simpatizzante di una parte piuttosto che... Ma io non sono simpatizzante di nessuna parte, Paolo. Guardi, lei si sbaglia su questo. È proprio un modo di pensare il suo, che è profondamente sbagliato. Il punto è questo. Perché se qualcuno esprime delle idee, bisogna accostare per forza queste idee a qualcosa o a qualcuno, a un governo, a un presidente del Consiglio, a un partito. È questo che è sbagliato. Beh, ma mi scusi, abbia pazienza. Io delle cose che dice Brunetta... Non siamo Verginelli, il mondo va così, voglio dire. Cioè. Ma il mondo non va così, il mondo va così secondo una mentalità italiana che è folle, che è quella di dare un timbro alle persone, di accostarle per forza a un partito o a qualcuno. Per cui io posso essere d'accordo su quello che dice un ministro, ma il giorno dopo ne dice un'altra cosa e posso non essere d'accordo. Non sono d'accordo su un sacco di provvedimenti legislativi di questo governo. Paolo, io in questo modo ragiono, non in un altro. Lei comunque in cabina... Esprime Il voto è qualcosa che per me inizia nel momento in cui entro dentro la cabina elettorale e finisce nel momento dopo. Non è che uno è timbrato da quel voto e dunque se ha votato PDL o ha votato PD è marchiato per 5 anni. Ma questa è una mentalità folle. Cioè, per me si vota, magari uno può essere pentito un secondo dopo. Mi è successo tante volte di pentirmi 5 minuti dopo o 10 secondi dopo. Per cui di che parliamo? E per forza mettere nelle caselle le persone, eccolo là, questo va messo dentro la casella di Berlusconi, del PDL o del PD, o è più vicino a quello o più vicino a quell'altro. Però, come si fa a ragionare in questo modo? No, vabbè, ammesso che sia sbagliato questo, per carità, lei è molto più colto di me, molto non più è questione di essere colti, cioè, no, per carità, è chiaro comunque che se cioè, allora, se fosse solo questo il problema, il fatto di non essere incasellati in un determinato, diciamo, partito, in un determinato schieramento, non capisco per quale motivo, e mi sembra che lei riceva molte telefonate, molti messaggi, eccetera, perché la gente ragiona in questa maniera. Allora, sono la gente, no, ma ripeto, non è che sbagliano, è che in Italia c'è questa mania di dover incasellare le persone all'interno di uno schieramento, eccetera. Pensi che c'è un famosissimo giornalista che chiunque osi dire delle cose più o meno vicine a quelle che dice Berlusconi li chiama serbi, per cui siamo messi così. La ringrazio. 29 minuti, c'è la titoli della 7 e poi pubblicità. Delitto di Garlasco, la perizia medico-legale ordinata dal GUP polverizza le prove dell'accusa e scagiona l'indagato Alberto Stasi. Non c'è nessuna prova di colpevolezza a suo carico, scrivono gli esperti. A meno di clamorose novità si va verso l'archiviazione per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, massacrata il 13 agosto del 2007. L'INPS dà le cifre della disoccupazione nell'anno della crisi. Sono 1 milione i nuovi senza lavoro tra il settembre 2008 e l'agosto scorso, il 50% in più dell'anno precedente. Quadruplicate le ore di cassa integrazione. Germania, Angela Merkel promette nuovo governo con i liberali in pochi giorni. Dopo la sonora sconfitta elettorale, dirigenti e militanti socialdemocratici chiedono ricambio generazionale. Abbiamo perso il contatto con la società, non siamo più un partito di massa. Caso Polanski, la procura di Los Angeles sta per chiedere alla Svizzera l'estradizione del regista arrestato ieri in Svizzera 32 anni fa, fu condannato per violenza su una tredicenne. Il governo francese e il mondo del cinema chiedono a Washington clemenza per l'artista. Andiamo subito a Grosseto da Marco. Buonasera Marco. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io ho chiamato solo perché poi non ho avuto modo di sentire una buona parte della trasmissione. E forse dirò delle cose ovvie, ecco, vorrei dire solo questo, io sono contento di pagare il canone Rai quando vedo delle trasmissioni come quella di giovedì, quella di Santino, che a me è sembrata una trasmissione molto valida. Sono meno contento quando vedo cose tipo l'Isola dei Famosi o cose di questo tipo, però spengo, magari giro da un'altra parte. Ecco, volevo dire, per quanto riguarda poi il fatto che sia stata una trasmissione corretta, posso dire che è iniziata, mi sembra, con 7, 8, forse 10 minuti di Berlusconi dal vivo, quindi reality TV, indifferita. Poi c'era Brunetta, poi c'era l'intervista a Feltri, poi in studio c'era Belpietro, in studio c'era il deputato Bocchino, mi sembra che facoltà di contraddittorio ce ne sia stata, è stata rappresentata una realtà che era la realtà di quei momenti che sono stati visti, che non sono piaciuti, però era la realtà, non è stata una mistificazione. Quindi sinceramente mi ha sorpreso molto anche questa polemica del giorno dopo, che magari mi attendevo, ma non in questi toni, perché insomma se non gli piace, se a qualcuno non piace quello che è stato detto da Berlusconi e da Brunetta, mi dispiace, però è stato detto. Quello sì, Marco, bisogna anche dire che il modo in cui poi si presentano questi servizi, sia quello su Berlusconi sia quello su Brunetta, è di un certo tipo. Il taglio delle frasi è costruito in un certo modo, ma questo va benissimo. Io sono la penso su queste cose esattamente come Giampiero Mughini, che dice si può cambiare canale, si dovrebbe fare un prodotto, se uno vuole può fare un prodotto alternativo a quello di Santoro, eccetera eccetera. Vittorio da Milano, buonasera. Vittorio, mi sente? Sì, buonasera. Dica. Buonasera. Aspetti che spengo la radio, perché ho dovuto accendere la radio perché ormai il mio orecchio era fuso. Pronto? Dica pure. Niente, no. Le volevo chiedere una cosa. Lei la sentivo che parlava con questo signore di Padova, che diceva, io sono, voglio dire, né di qui né di là, sono, quindi la considero una persona equidistante, una persona normale, che poi, voglio dire, sono d'accordo con lei di giudicare gli atti del governo, le dichiarazioni del ministro o quant'altro. Però io mi domando, quello che ha detto Berlusconi, che l'ho sentito alla radio, lei l'ha fatto sentire stasera, ma lo considera siamo un paese normale? Può un leader, un primo ministro, esprimersi così, come una iena inferocita, incolpando tutti, voglio dire, anch'io che non voto Berlusconi e quindi mi ritengo insultato perché è venuto qui a Monza e ci ha dato del gay, da un'altra parte ci ha dato dei mentecatti, gli hanno detto che siamo dei coglioni che votiamo a centrosinistra. Ma è possibile fermarlo un uomo così? O bisogna lasciarlo andare a ruota libera? E quelle persone lo applaudono. Come, scusi? A parte quelli che lo votano per interessi, perché giustamente gli evasori fiscali, i delinquenti, i mafiosi in Italia, ce n'è pieno l'aria. Quindi è chiaro tutti che votano Berlusconi, naturalmente. Certamente, un evasore fiscale sicuramente vota Berlusconi. E figuriamoci, certo, Vittorio. Certo, è normale. È, no? Come, dire... è come non vedere questa realtà che un mafioso, un evasore fiscale vota Berlusconi. Beh, è talmente evidente che allora, è impossibile negarlo. Ma lei faccia la persona normale ogni tanto. Non faccia Vittorio, senta, se la persona normale, secondo lei, significa dover dire di sì a queste stupidaggini, non sono una persona normale. No, ragioni con la sua testa. Non sono una persona. Io sto ragionando con la mia testa, infatti. Allora, siccome ragiono con la mia testa, le dico che questo ragionamento è un ragionamento ridicolo e anche un po' così, un po'. Allora, se uno va in... No, aspetta, mi faccia finire, perché lei con quello di Paolo c'è stato mezz'ora. Mi faccia dire qualcosa. Sì, ma lei può stare anche tre quarti d'ora, perché poi finiamo alle 9. Giovanni Bertacche, buonasera. Buonasera. Avvocato, Comitato per la Libera Informazione Radio Televisiva. Mi aspetti un attimo, Bertac, dobbiamo parlare del canone con lei, però devo sbrogliare una situazione con il nostro Vittorio che ci ha chiamato da Milano. Bravo. Ed è molto critico nei miei confronti, ma non è una novità, siamo qui per questo, a prendere pietre. Allora, io non sono critico, le chiedo di ragionare con la sua testa. Allora, ma io di solito ragiono con la mia testa, è lei che pensa al contrario. Che i magistrati sono farabutti, sono delinquenti. Se uno va in televisione a dire che evadere le tasse è una difesa, se questo, cioè, secondo lei gli evasori fiscali e quelli che hanno problemi con la giustizia con chi si schierano? Vittorio, lei prende pezzi di frasi, dà una rappresentazione un po' così. Pezzi di frasi, ma dà una rappresentazione di Berlusconi un po'. Ma secondo lei quelli che non votano Berlusconi, il 50% degli italiani, perché sono più del 50%, sono tutti onesti e gli altri sono disonesti, questa è la sua tesi. Allora, le voglio dire questo. No, ma mi risponda, secondo lei sono quelli onesti non lo votano e quelli disonesti lo votano, è così? No, allora. È questo che lei ha detto, non estrapoli anche lei dal mio ragionamento. Allora, sicuramente quelli che hanno problemi con giustizia, i disonesti, i delinquenti, sicuramente votano Berlusconi. Ma Vittorio, ma io come posso continuare a ragionare su questo? Delle persone oneste che votano Berlusconi, sì. Non lo capisco perché lo votano negli ogni tanto. Evidentemente perché sono nubilati, non so, sono influenzati dalla televisione. Mi dica perché allora, quelli onesti. Non è reale che è andato con le prostitute, ci crede tutti scemi? Ci crede tutti? Vittorio, però parliamo di adesso, non passiamo a parlare di prostitute. Di quello che vuole lei. Ho capito, io non voglio parlare di quello che voglio io. Lei passa dagli evasori alle prostitute come se non fosse. Ma voglio dire, non può negare l'evidenza, non può fare quelle robe lì. Ci prende tutti per scemi. Allora, io non credo che siamo tutti deficienti. Vabbè, allora, secondo lei quelli che lo votano e non sono delinquenti, perché lei ha diviso gli elettori di Berlusconi in delinquenti oppure quelli che lo votano e non, lei non riesce a capire perché, così? Infatti io, la mia sofferenza non è perché lo votano gli evasori fiscali e lo votano quelli che conosco io, certo. Che fanno i commercianti, che fanno gli professionisti, che non pagano le tasse. La sua sofferenza sono quelli onesti. Quelli lì lo ammettono, dice certo, io voto di là. Poi ci sono quelli onesti, ingenui. E lei non riesce a capacitare, non se ne fa una ragione. No, non me ne faccio una ragione, infatti, e non me ne faccio una ragione neanche lei, quando lei dice e non è schierato, poi invece lei difende queste posizioni, perché dice no. Quali lei... posizioni difendo? Quando lei discute con me dicendo no, non è vero che i delinquenti votano tutti per me. Insomma, lei lo sanno anche lei non saperlo. E vabbè, infatti sono l'unico a non saperlo e vivo nell'ignoranza. La ringrazio, Vittorio. Andiamo al caro avvocato Bertacche. Allora, che succede con questo canone? Questa battaglia di Libero del giornale ha qualche sbocco? Può avere qualche sbocco secondo lei oppure no? No, sono cose che già successe più volte, non è la prima volta, che dall'alto, proprio nei piani alti, si dice di non pagare il canone RAI. E i piani alti in questo caso quali sarebbero? Il giornale o Libero? I piani alti della politica, intendo. E non è la prima volta, ci sono stati. Ma in questo caso la politica non c'entra, però. Anzi, molti politici del centrodestra si sono detti scandalizzati, contrari, eccetera, eccetera. Beh, non molti politici. Oggi ci sono una serie di dichiarazioni. Il giornale di oggi è pieno di pagine di personaggi illustri. Ah, eccetera, personaggi eccetera. Illustri, lei dice. Sì, è vero, è vero. Zeffirelli, eccetera. Ma a che pro questa disdetta del canone RAI? Non lo so, anche però me lo spieghi lei è esperto io di queste del cose. Comitato, noi del comitato siamo da oltre 20 anni, abbiamo nel Triveneto perlomeno oltre 20.000 disdette, ma per un obiettivo, non per non pagare il canone. Il non pagare il canone, cioè la disdetta, è uno strumento per sensibilizzare, per spingere, per smuovere un po' questo mondo. Vabbè, alla fine il risultato è quello, però non si, la disdetta e dunque non si paga il canone. D'accordo, ma vabbè, al di là dell'obiettivo, ma insomma si riesce per davvero oppure arrivano a suggellare, a sigillare, ma il termine tecnico no, è suggellare? Non arriva più. Dal 2004 non c'è più nessun caso che a noi sia a conoscenza che ci sia stato un suggellamento. E che succede? Arrivano le cartelle esattoriali? No, non arriva niente, la disdetta è in regola, non è un'evasione. Cioè uno fa la disdetta e la basta. La disdetta è regolare, è a posto tanto come chi paga. Ma lei invita a fare questa cosa oppure no? Noi lo facciamo come comitato, lo facciamo per, ripeto, per un obiettivo, quello di cambiare questa RAI. Tutti, a tutti fa schifo, però nessuno ci mette mano. Vabbè, più o meno è quello che vogliono fare Libero e il Giornale, al di là del caso Santoro. Esatto, no? Esatto, va bene, va bene. Vabbè, insomma, allora, al di là, io voglio capire, Bertacche. Prego. No, voglio capire una cosa. Voi in quante persone avete mandato questa lettera di disdetta? Ripeto, il comitato in questi 20 anni ne ha oltre 20.000, quindi 20.000 tutti concentrati lì nel Triveneto. Cioè ci sono 20.000 persone nel Triveneto che hanno mandato la lettera di disdetta all'abbonamento RAI. Hanno disdettato il canone RAI. E a nessuno di questi 20.000 è accaduto qualcosa? I primi anni c'è stato, faccia conto, neanche una cinquantina di persone, di famiglie hanno avuto poi l'insaccamento del televisore. Ma ripeto, dal 2004 non è più successo niente. Senta, ma all'insaccamento del televisore poi come si reagisce? Cioè cosa succede? Uno se ne compra un altro e se lo mette dentro casa? Beh, questo è un altro discorso. In che senso? è un altro discorso nel senso che Bertà, che non si distragga con sua moglie, mi risponde. No, perché qui avevo acceso la radio per sentirla. Ah, la radio, sì, vabbè, ma non bisogna accendere la radio. Ma lei ce l'ha il televisore a casa o no? Sì, ce l'ho il televisore, guardo anche la RAI quando mi... Però lei ha mandato lo stesso la disdetta. Si capisce, finché non mi arrivano ad insaccarlo, cosa devo fare? Beh, Bertacche, però lei si sta confessando così in televisione, l'avvocato Giovanni Bertacche... Ma non ci sto confessando nessun reato, perché sono disdettante. Ho capito, ma lei evasore. Ah, lei sta aspettando che arrivino i finanzieri o qualcun altro. La Guardia di Finanza a insaccarmi il televisore. Non confondiamo. No, per carità, no. Evasore come no, adesso un altro è previsto cosa. Per legge poi. Però lei, scusi, con la disdetta dice di non sostanzialmente di non avere più il televisore, per cui sta dicendo un po' il falso. No, io sto dicendo ho il televisore e voglio che venga suggellato, cioè insaccato. Ah, ho capito. No, non ho più il televisore. Per cui è tutto regolare, è tutto normale. Lei continua a avere il televisore pur avendo disdettato. Se non avessi il televisore non avrei avuto bisogno di disdettare. Chiaro. No, sì, ho capito. Però nel momento in cui uno disdetta magari dismette anche il televisore. Che ne so, lo spegne, lo mette in cantina. No. La disdetta si conserva il televisore. Perché lei conta sul fatto che non passa... Si aspetta l'insaccamento. Tanto dice lei ormai l'insaccamento non arriva più. Non lo fanno. Vabbè, questo non dipende certo da me, insomma. Ma lei è così sicuro che non è... Io vorrei che andassero a insaccare i televisori di tutti i disdettanti che hanno fatto appunto disdette in questi anni. Per vedere, sentire un po' le reazioni, anche perché bisogna pure stimolare le forze politiche. Senta, ma se uno vuole insaccare, no? Se arrivano le persone, bussano, eccetera, uno può anche dire no, non entrate? No, uno può dire anche non entrate e allora a quel punto... E viene annullata la disdetta, viene invalidata la disdetta. Cioè non è detto che uno debba aprire la porta, prego entrate. No, nessuno può entrare in casa nostra senza un permesso. Dunque anche se dovessero arrivare eccetera eccetera, comunque uno li può respingere. No, ma non le fa più la Guardia di Finanza, almeno nelle ultime occasioni, manda un avviso, guardate, trovatevi a casa il giorno tal di tali oppure diteci quando ci siete perché veniamo a insaccare. Ah, cioè avvertono prima? Sì, beh, che senso ha allora? Perché cosa c'è da nascondere o cosa c'è da sorprendere? Sono stato io, quando faccio disdetta, chiedo che venga insaccato il televisore. Ah certo, dovrebbe essere tutto lineare, certo. Sembra quasi che ci siano tutti sotterfugi. Io faccio il furbo con il governo fa il furbo con me. Senta, ma c'è un caso arrivato anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo? Non so sì, l'abbiamo tutelato noi come... ma perché è arrivato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo? Mi scusi. Perché avevamo lamentato che fosse illegale, illegittimo, incostituzionale il fatto di insaccare il televisore. Ah, e beh... Se io do disdetta al canale RAI, mi vengono a bloccare il canale RAI, ma non insaccarmi il televisore. Non c'è soltanto la RAI. Ma com'è finita? È finita che dicono che poiché il canone è una tassa, è obbligatorio, quindi per fare in modo che la gente non paghi più il canone, è giusto che venga insaccato. Insomma, avete perso. Sì, sì, è persa. Ma non era sul canone l'obbligo. No, no, ho capito, sull'insaccamento, diciamo. Sull'insaccamento. Ma è vero che venivano con l'aiuta oppure no? Una volta. Beh, con il solito sacchetto di plastica nera, non so, qualcosa di simile. Che poi lo legano col ferro e con un punzone di piombo. Sì, sì, ma che sua moglie gliel'ha suggerito. Però No, lei è la moglie del presidente del comitato. Del comitato. E qui con me anche lui. Siete tutti insieme. Senta, ma se uno questo televisore insaccato, uno poi lo può liberare da solo oppure no? No, allora no. Commetterebbe una violazione. Però una volta che se ne vanno i finanziari uno lo libera da solo. Teoricamente dovrebbe tenerlo per sempre anche per essere verificato se rispetta il suggellamento. Qualche ascoltatore, poi sentiamo il titolo del TG2, è sempre con noi Giovanni Bertacche, avvocato del Comitato per la Libera Informazione Radiotelevisiva. Resti lì Bertacche. Loris da Milano, Loris, eccolo. Buonasera. Dica. Ma io per assurdo sono favorevole per il canone RAI, perché innanzitutto non è un canone RAI, ma è una tassa di possesso televisivo. Quindi già il discorso che io la RAI non voglio vederla perché viene gestita male e via dicendo è assurdo. Perché come io pago il bollo della macchina perché ho la macchina. È il canone della RAI però, lasci perdere la questione tassa di possesso. Ce l'hanno intortata in maniera diversa. È il canone RAI, anche perché viene presentato come canone RAI ogni volta che c'è il rinnovo, no? Per cui. Ok, però nel momento in cui eliminano il canone RAI, cosa succede? Che lo Stato ci mette delle tasse diverse per recuperare. Per sovvenzionare la RAI, lei dice. Il problema è a monte, lei dice, non è tanto la questione. Il problema è a monte. Perché una volta questo canone serviva per sovvenzionare la RAI, adesso la RAI si dovrebbe sovvenzionare con la pubblicità, perché quando io ero piccolo la RAI pubblicità non ne faceva, o molto poco, c'era il carosello, c'erano gli intermezzi tra un film e l'altro, adesso la pubblicità è ogni 15 minuti come le reti private. E dunque? E quindi è inutile eliminare il canone RAI. Perché comunque anche se elimini il canone RAI poi te lo mettono in un altro modo, in un'altra forma. La ringrazio. Elena da Verona, buonasera Elena. Buonasera. Dica. Allora, io invece sono contro il canone RAI, prometto che io non lo pago perché lo so che è sbagliato secondo la sua idea, però appunto perché il servizio che mi offrono è talmente pessimo, è l'unico canale RAI che si salvava era RAI 3, poi anche quello è andato un po' a scadere. Io pago il canone, pago un abbonamento di un noto di una nota TV satellitare e ne sono contenta, nel senso che io scelgo tutto quello che voglio vedere, documentari d'altro, senza dover andare e non vede a vedere. Perché oltre a questo abbonamento deve pagare anche una. Sì. Sono d'accordo che sia la tassa di possesso, ma la domanda mia, la provocazione mia è questa. Ma nel momento in cui io devo pagare la tassa di possesso di una televisione, devo pagare la tassa di possesso anche della lavatrice, della lavastoviglie, del robot da cucina? La ringrazio, cioè. Elena, la ringrazio. Grazie per questa provocazione. Domandiamo ancora a Enrico, provincia di Roma. Prego, Enrico. Buonasera, dottor Cruciani. Sì. Pronto? La sento Enrico, dica pure. Ecco. Niente, io ero un po' contrario a quello che ha detto la signora, in quanto io ho 67 anni, da quando ho 21-22 anni che pago il canone RAI e devo dire ad eccezione di rarissimi momenti, sono contento di pagare il canone. E secondo me è giusto che il canone si paghi. Vabbè. Perché uno soffrisce di un servizio, come tutti i servizi vanno pagati. Poi se a qualcuno non piace un programma, al limite cambia. E io recentemente avevo pensato quasi di non pagarlo il canone, perché in realtà ultimamente quello che i telegiornali della RAI, RAI 1 in particolare e anche altri, non ci danno più le notizie e le informazioni. Cioè lei era arrabbiato con Augusto Minzolini? Ero arrabbiato proprio perché di fatto non ci danno più le informazioni, c'è una censura su questo. Ho capito, vedete come è bizzarra la situazione. Alcuni non vorrebbero più pagare il canone perché dicono che la RAI è lottizzata e soprattutto occupata da Berlusconi, altri invece causa Santoro. Bertacche, io voglio sapere da lei, da quanti anni lei non paga il canone? Da me vuoi saperlo? Sì, Bertacche. Da oltre vent'anni. Da oltre vent'anni? No, non pago il canone, ho disdettato il canone. Ah, disdettato, cioè dunque non lo pago. No, c'è gente che non paga il canone così, sic et simpliciter. Eh no, io ho disdettato il canone. Lei come disdettato. Come tanti altri con me. Ho capito. Resto. Bisogna stare attenti coi termini qua, se no lei... No, disdetta è una cosa, l'evasione è un'altra, questo lo capisce chiunque... No, insomma. Beh, certo, naturalmente, cioè lei dice una cosa è non pagare tu cur, una cosa è mandare la disdetta e la però... disdetta e si paga anche, e si paga per fare la disdetta. Vabbè, 5 euro sembra, no? 5 euro e 16. Vabbè, non è una grande cifra. Ho capito, ma è perché ora è la spesa del suggellamento dell'apparecchio. Suggellamento? Come mai questo termine? Lei che è avvocato, suggellamento. Ma questa è... Suggellare, non sigillare. Suggellare, questo è il termine usato nel 1938, che è la legge che ancora prevede queste cose. Infatti, leggo qua, in passato le autorità lo suggellavano fisicamente in un sacco di juta. Oggi accade molto raramente, lei ce l'ha spiegato, no? Ma lei lo conosce qualcuno? Io non ne conosco nemmeno uno. Che ha ricevuto una visita di un finanziere, di un rappresentante della RAI? Sì, primi anni 80, quando avevamo cominciato le disdette, sì. C'era qui nel Veneto, si era cominciato una specie di terrore, e c'erano le guardie di finanza che entravano, andavano e uscivano, addirittura così anche per controllare se era in regola col canone. Ma quanto è durato questo terrore? Era durato 7-8 anni, forse una 10 anni. E addirittura. Poi dopo ci siamo messi, quando è entrato in funzione il garante del contribuente, siamo riusciti a tamponare la situazione. Senta, ma l'evasione, ma non mi rivolgo a voi per carità, non parliamo di evasione. Comunque, insomma, in generale, in quanti è che non pagano il canone della RAI oggi? Quant'è? Il 30% l'evasione? Quant'è? Ecco, qui abbiamo già contestato anche al Sole 24 Ore, che ha fatto quel servizio, mi pare l'estate scorsa o l'anno... Vabbè, adesso sì. Non ricordo, che avete contestato? Ha fatto servizio parlando appunto di evasione fiscale pari al 27-30%. Abbiamo detto, signori, dovete distinguere tra evasione e disdetta. Che non paghino saranno un 30%, ma bisogna distinguere tra evasione e disdetta. Altrimenti ci sentiamo offesi, non solo, ma addirittura facciamo una querela per diffamazione. Addirittura. Vabbè, la scusa è, insomma, se uno è disdettante, è in regola tanto come chi paga. Adesso non esageriamo, insomma, in come regola come chi paga. Chi paga vabbè, è in voi, regola per un verso. Però Bertacche, diciamo, paga per disdetta, sì, certo. È in regola per l'altro verso, certo, secondo certo. La legge. Assolutamente, in punta di diritto è così assolutamente. Però Bertacche, diciamo la verità, questo qua, voi puntate su che cosa? Puntate sul noi fatto che non passa nessuno, sul fatto che non passa nessuno. Culturale della RAI. Vabbè, ma quello allora, d'accordo, quelli sono le motivazioni che sono a monte del vostro gesto. Però... Adesso ce l'hanno, diceva lei, con Berlusconi. Ieri ce l'avevano con Prodi, l'altro ieri ce l'avevano con Berlusconi ancora. Sì. Ma guarda che è una specie di turno, quindi non è il problema Berlusconi o Prodi o chi per essi. Ma è la situazione della RAI che si protrae così da 70 anni. No, ma sono d'accordo, io sono perfettamente d'accordo con lei, Bertacche. Il punto è un altro, che bisogna essere anche onesti. No, lei dice, onesti, sto dicendo intellettualmente, non sto dicendo che lei è un disonesto. Voi mandate queste disdette e contate soprattutto su che cosa? Contate sul fatto che non passa nessuno. Questa è la realtà. Altrimenti... No, noi contiamo sul fatto che queste disdette devono segnare un punto nei confronti che sia la RAI a farsi promotrice presso i suoi padroni, che sono le forze politiche, per dire qui la situazione cosa c'è? C'è qualcosa che non funziona. Siccome nessuno dei partiti, nessuno né a destra né a sinistra né al centro si premura di modificare le cose, allora sì. Prendiamo per il collo che cosa? Il canone RAI. Ma evidentemente, ho capito, evidentemente Bertacche non ci sono tante disdette. Quante sono le disdette? Non sto parlando di evasione, le disdette. Ha fatto un calcolo in Italia all'anno, quante disdette si mandano? Disdette per noi, quelle che conosciamo noi, sono oltre 20.000, abbiamo detto prima. Ma quante ce ne siano delle altre? C'è gente che fa anche per conto proprio. Ma è così, a occhio e croce, sul 30%, sul 30% di evasione, 27% evasione, scusi, sul 27% sì, di gente. Ma poco, è poco. Difatti noi ci siamo ripromessi di arrivare a 1 milione di disdette. Che adesso con quello che sta facendo il giornale, dico, è libero. Vuoi che arriviamo al 1 milione? Vediamo. Bertacche, grazie, buonasera. Grazie, buonanotte. Sentiamo 20:45, buonanotte, va bene lo stesso, titolo del TG2. La polemica sul ruolo dell'opposizione sulla missione in Afghanistan. Per il presidente Napolitano c'è stato un larghissimo sostegno, le becere contestazioni non contano. Il ministro Tremonti, l'economia ripartirà, ma non si apre un'età dell'oro, nel mezzogiorno devono tornare lo Stato e le grandi opere pubbliche, rilancio della Banca del Sud. Giallo di Garlasco, la super perizia medico-legale chiesta dal giudice, dà in diversi punti da ragione alla difesa di Alberto Stasi, unico imputato per l'omicidio di Chiara Poggi. La Cragas, squadra di calcio di Agrigento, vince e il presidente dedica il risultato a un amico mafioso arrestato qualche giorno fa. Il questore revoca la licenza per il campo. La rivoluzione calcistica di Zeman in un documentario sul Foggia anni 90. Il tecnico boemo... Bene, andiamo a Firenze. Giuseppe, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Buon collocazione per una battuta. Sono un imprenditore e giuro che sono di sinistra, così la finanza è avvisata, insomma persona onesta. Poi volevo parlare per la squadra di calcio di Agragas, ma mi permetto forse di cambiare il mio intervento in un altro, volevo la brevissima polemica che si è sviluppata in questa sera in trasmissione. Cioè quella poi di personalizzare le persone per come devono rappresentare una trasmissione. In realtà, dottor Cruciani può essere simpatico o antipatico, ma credo che chi lo ascolta, e credo tantissimi da quello che vedo e da quel che sento, l'importante è che faccia trasmettere, trapelare, secondo me, l'informazione la più ampia possibile, dando spazio a chi che sia di poter esprimere la propria ed ognuno di noi che ascolta quella di poter essere d'accordo o meno, di verificare se questa intesa ci aggrada o meno. Devo dire la verità, in questi anni in cui l'ascolto io ho imparato ad apprezzare anche molto chi la pensa diversamente da me. E nel caso suo personalmente mi sono trovato a volte a essere d'accordo o a volte non essere d'accordo, ma questo non toglie nulla sulla simpatia o l'antipatia delle persone, perché non riesco a capire perché bisogna arrivare a personalizzare. Questo vale per lei, vale per il governo, cioè a me può essere antipaticissimo, simpaticissimo Berlusconi, ma che nel mio interesse sia opportuno che valuti il suo lavoro, per quel che posso essere capace di valutarlo. E credo che se tutti noi un po' spingiamo la nostra mente in questa direzione, probabilmente forse otterremo anche qualcosa di più, anche perché poi la politica non è altro che il proponimento di alcuni interessi, alcuni più ampi, quindi in questo senso a volte quegli interessi collimano con i miei e quindi sono d'accordo, qualche volta non collimano con i miei e sono in dissenso, se sono più onesto e questi che non collimano con i miei diventano interessi più generali, dovrò capire che forse è bene che sia così, anche se questo faccio fatica a non sopportarlo. Quindi ho capito il suo ragionamento molto pragmatico, Giuseppe, anche di fronte alle grandi divisioni che spesso ci sono tra le parti politiche. Andiamo più veloci perché siamo in conclusioni. Alessandro da Roma. Buonasera Cruciani. Dica. Io volevo parlare dal mio punto di vista, sono un operatore di polizia municipale e mi occupo di abusivismo edilizio. Sì. Facendo riferimento a quel signore che diceva tutti gli evasori, i mafiosi, secondo me è un'esagerazione, non ha, poi lo dice così. Io invece dal mio punto di vista è noto che la maggior parte di coloro i quali poi incappano nell'abuso edilizio, effettivamente per motivi abbastanza comprensibili, e invece votano o sono pronti a votare Berlusconi. Ma come fa lei a saperlo? Scusi, ogni perché volta te lo chiedo. Sì, ah, e loro soprattutto mi chiedono a quando è che Berlusconi fa l'altro, perché Sandro, mi lasci dire una cosa, sì. Non è che lei fa il sondaggista o l'esperto di movimenti, guardi, elettorali, per cui è vero, che significa, lei glielo chiede, lei per chi vota, lei si presenta, allora, come ufficiale di polizia, cioè, locale, va lì e dice scusi, lei per chi vota? No, lei sa che aveva presentato Berlusconi il piano casa, che poi ha saltato per altri motivi, sì, e poi viene riproposto dalle singole regioni. Effettivamente loro, da questo punto di vista, lui ne aveva parlato già in campagna elettorale, cioè, ma che c'entra, hanno delle aspettative, ma sono legittime. E guardi che non sono elettori di destra, ma in quel caso, guardi, per un motivo particolare, tendono a votare. Non lo so, guardi, esatto, io conosco un sacco di persone che hanno fatto dei condoni, che hanno aderito a dei condoni, che hanno condonato, che hanno chiesto condoni, e certamente non votano Berlusconi. La ringrazio. Fabrizio dalla provincia di Pavia, andiamo veloci. Fabrizio, buonasera. Buonasera, allora intanto tantissimi complimenti, premetto che sono a favore di non pagare il canone RAI, però siccome mi è successo un disguido per la mamma che è andata in casa di riposo, pensavo di poterle dare una notizia importante, che è questa. Abbiamo fatto tutta la documentazione via internet dal sito ufficiale. Quando una persona va alla casa di riposo, cosa succede? Uno presenta la domanda, la manda alla RAI e quindi automaticamente non paga più il canone. Invece? Cosa è successo? Si è fatto il tutto, la comandante, eccetera, mi vedo arrivare a casa dopo alcuni mesi addirittura al cartello esattoriale, all'avviso di cartello esattoriale. Sì. Al che ho dovuto rispondere che, oltre ad averlo pagato per anni, la casa, ho allegato l'entrata della mamma nella casa di riposo e ho dovuto minacciare le vie legali per poter farmi togliere questo discorso di avviso di cartella. Alla fine chi ha vinto, lei oppure questa burocrazia pazza? Me l'hanno tolto, le dirò di più però, perché così può servire. C'è anche scritto che se uno paga il canone della RAI per i primi, non so, 6 mesi, sì, e gli altri 6 mesi va alla casa di riposo, cosa succede? Che per gli altri 6 mesi dovrebbero restituirle questo pagamento effettuato. E invece lei lo scrive, gli scrive la lettera, ma questi soldi non li vedrò mai. Può darsi, Fabrizio. Non è quella la differenza, ma per precisare che non è così facile come ho sentito avere a che fare con queste questioni. Va bene, Fabrizio, grazie. Giorgio da Como, Massimo la provincia di Bergamo, Erasmo da Terni, dobbiamo un po' scegliere. Massimo, provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera Luciani. Velocemente. Niente, un appunto legato a lei e di riflesso al presidente Berlusconi. La sento molto difensivista riguardo a Berlusconi. Ancora? Ancora. Mi permetta, non dico mi consenta. E poi noto che quando parlano a favore di una certa parte politica lei sta zitto. Quando non è d'accordo o parlano contro, lei interviene. Mi sembra che non sia un giudizio giornalistico imparziale. Vorrei invitare il direttore di Radio 24, che per esso, ad fare attenzione a questa cosa. E dunque a fare cosa? Ma per me il suo giudizio giornalistico di una trasmissione che non deve essere di parte non è corretto. La ringrazio. Forse lei non ha capito com'è costruita questa trasmissione, Massimo. È 3 anni che è costruita appunto per far venire fuori anche il giudizio, l'opinione di chi conduce, del sottoscritto. Ma è difficile afferrare cose di questo tipo. Erasmo da Terni, Giorgio da Como, dobbiamo chiudere però. E allora ci sentiamo con tutti voi domani 18:30, ciao. La Zanzara.